scrivere, trascrivere la vita, segnare il tuo passaggio con un coltello spinto a forza sopra ad ogni tua ferita, guardare con gli occhi che bruciano mentre un giorno sorge o va in frantumi, sentirsi dire merda, smetti, smetti, smetti di fare quello che fai, di dire quello che vuoi, tu non devi giudicare mai nessuno se non vivi i cazzi suoi, se non sai che nei talloni sono nate le vesciche per la strada fatta a piedi, che ogni metro di successo ha un caro prezzo. Noi siamo in mezzo fra una partenza ed un traguardo che si è infranto, noi siamo corpi nell'amianto, rispetto a te pezzo di fango, siamo vivi affamati e nel digiuno, noi siamo figli di nessuno, noi siamo figli di nessuno, di depressione nel bene e nel male, di odio e rabbia nei confronti di ogni forma istituzionale, lasciati a giocare fra le pecore fuori casa, soli, figli di madri fragili, insicure e un po' volubili, figli di sette peroni fredde alla vigilia di Natale, di percorsi di recupero per alcolismo adolescenziale, di porte chiuse in faccia, di le faremo sapere, di panni stesi la notte mentre ripeti che ti sei rotto il cazzo, noi siamo in mezzo fra la purezza e l'inquietudine di un santo, noi siamo corpi nell'amianto, rispetto a te pezzo di fango, siamo vivi e tu non sei opportuno, noi siamo figli di nessuno, noi siamo figli di nessuno. Benvenuto al mondo, stronzo, piangi, bravo. Fa logica e domani festeggiamo e piangi ancora col cordone, non parli. Domani c'hai 20 anni con i tarli nella testa e con la voglia di far festa con i compagni. E sono 30 anni, pensa, scrivi 30 con il dito sulla condensa. Io che non ho mai capito cosa compensa questo vuoto sconfinato, sento puzza ribruciato nella mia testa, imbucato nella mia festa. Vado via presto, ma tu via resta, voglio solo prendere fiato nella tempesta. Ma noi figli ci viviamo nella tempesta, siamo soli nella tempesta, e dimmi cosa resta. Quando cala il vento, dimmi cosa resta. Giorni migliori arriveranno, lascio parlare tutti quelli che non sanno. Giorni più duri, io non mi spezzo, la mia bellezza nasce dal vostro disprezzo. Noi siamo in mezzo fra una partenza ed un traguardo che si è infranto. Noi siamo corpi nell'amianto, rispetto a te pezzo di fango, siamo vivi affamati nel digiuno, noi siamo figli di nessuno, noi siamo figli di nessuno, noi siamo figli di nessuno. Noi siamo figli di nessuno.